Che cosa serve portare all'URP Anagrafe per ottenere la carta di identità? Devi portare con te una tua fotografia a formato tessera recente, non più vecchia di 6 mesi, la carta precedente se è ancora valida, la tua tessera sanitaria o il tuo codice fiscale. Se sei un cittadino extra UE, il permesso di soggiorno oppure la dimostrazione della regolarità del soggiorno, ad esempio la ricevuta richiesta di rinnovo permesso di soggiorno. Dopo che sei stato all'URP Anagrafe e hai fatto la richiesta, la carta di identità ti viene spedita a casa per posta. Devi aspettare qualche giorno.